vita, don via la bombe vestita, o tiene le wanna mape che wanna nu vedi ma le sama mo cusi no ma le e wanna na bonzo o gatene we na Lay a one and a pulse on. Oh, God,